Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Io sono Elisa Pasquini e vi ho portato nel meraviglioso mondo dei fiori di Bach e dei cristalli. In questa puntata di oggi vorrei concentrare la mia pillola sui fiori di Bach per gli animali. Quindi parleremo dei fiori e di come questi possono aiutare i vostri animali. Se vi ricordate bene, i fiori erano divisi in sette categorie. All'interno di ogni categoria ci sono i fiori che possono essere assimilati a questa categoria e vanno a equilibrare quindi le varie emozioni. Se vi ricordate, abbiamo parlato di fiori per la paura, fiori per coloro che soffrono di incertezza, fiori per l'insufficiente interesse per il presente, fiori per la solitudine, fiori per l'ipersensibilità alle influenze e alle idee, fiori per lo scoraggiamento o la disperazione, fiori per la preoccupazione e l'eccessivo per il benessere degli altri. Quindi ora cercherò di concentrare la mia pillola dicendovi a che cosa servono i vari fiori di Bach per gli animali. Partiamo quindi con i fiori per la paura. Dal primo, Aspen per gli animali, si usa per ansia anche se lo stimolo che provoca l'ansia può non essere presente, quindi l'ansia da separazione. Mimulus per gli animali. Paura in presenza di determinati stimoli, quindi paura degli uomini, dei gatti, delle automobili, dei rumori, eccetera. Rock Rose per gli animali, paura estrema dove la relazione è il blocco totale dell'animale. Il cane si blocca impietrito durante un temporale. Cherry Plume per gli animali, paura estrema dove c'è anche un elevato livello di movimento muscolare, abbaiare e correre dietro le macchine. Red Chestnut per gli animali, si usa solo per i cospecifici, quindi preoccupazione per i nostri cari. La mamma che ha paura è preoccupata perché i cuccioli sono stati tolti troppo presto. Fiori per coloro che soffrono di incertezza. Fanno parte di questi fiori serato che però non viene usato per gli animali. Se vi ricordate è il fiore per coloro che non hanno fiducia nel proprio giudizio. Sclerantus per gli animali, incertezza e indecisione nell'aggressione ridette, indecisione se mordere il proprietario o meno. Viene usato anche per i cani che hanno problemi di viaggio, quindi se avete un cane che soffre la macchina o soffre il movimento, potete usare questo rimedio per portarlo in vacanza con voi e farlo stare meglio. Gentian per gli animali, scoraggiamento dopo un fallimento. Animali molto gentili che dopo una brutta esperienza diventano tristi e scoraggiati su tutte le novità. Gorse per gli animali, perdita di speranza e disperazione, rinuncia. Un animale costretto a stare fermo e rinchiuso per una frattura per un lungo tempo, dopo rinuncia alla vita. Hornbeam non viene usato per gli animali, se vi ricordate è il rimedio delle persone che hanno stanchezza e spossatezza e non riescono a fare alcun fiore, alcun movimento, era il fiore del lunedì mattina. Wild Oat, indecisione di cosa fare nella vita, è molto utile per i cani di canile che dopo tanti anni vengono adottati e non sanno abituarsi alla nuova vita e a cambiare le loro abitudini. Fiori per l'insufficiente interesse per il presente. Abbiamo Clematis, che per gli animali è nessun interesse per il presente o per l'ambiente, quindi un animale che rimane inchiuso sempre da qualche parte a dormire. Honeysuckle. Per gli animali, vivere nel passato, un cane che piange sempre per la morte del suo compagno, lo cerca sempre come per voler rivivere sempre il passato. Wild Rose non viene usato negli animali, è rimedio per le persone che hanno accettato tutto quello che la vita gli ha riservato e hanno smesso di rivoltare per ogni obiettivo, quindi il fiore per l'apatia. Olive per gli animali, stanchezza estrema fisica o mentale, un animale che lavora troppo e non riesce mai a riposarsi. Quindi cani da gregge, oppure cavalli da monta, eccetera. White chestnut per gli animali, pensieri indesiderati, discussioni mentali. Un cane che si agita il venerdì perché sabato sera di solito va in gara, per esempio. Mustard è il fiore della profonda tristezza, anche questo fiore non viene usato per gli animali. Chestnut butt. Per gli animali, incapacità di imparare dai propri errori, incapacità di imparare cose nuove e si commette sempre lo stesso sbaglio. Per esempio, se l'acqua della ciotola viene spostata e l'animale continua a cercarlo nel vecchio posto nonostante sappia dove sia. Fiori per la solitudine. Heather negli animali, egocentrismo e egoismo. Una canina in calore che è messa in isolamento, si lamenta e piange disperata perché vuole essere liberata. Impatience per gli animali, impazienza, agitazione per la visita dal veterinario. E non si vuole che non si vede l'ora che finisca, impazienza per l'anticipazione dell'uscita per per andare fuori, eccetera. Water Violet, anche questo rimedio non viene usato per gli animali, e è il rimedio per le persone che sono molto timide, riservate, che non amano uscire e non vogliono, preferiscono stare sole piuttosto che in compagnia degli amici. Fiori per l'ipersensibilità alle influenze e alle idee. Agrimoni, attenzione, agrimoni per gli animali è usato per la tortura mentale nonostante un atteggiamento sorridente e sovraentusiasta. È tipico del boxer, razze selezionate per essere sempre felici e giocose. Centauri. Centauri per gli animali è l'incapacità di dire di no, un animale che viene punito e dopo non ha più il coraggio di andare contro il proprietario, animali tristi, senza entusiasmo e non riescono mai a fare a provare qualcosa di nuovo. Walnut, molto importante per le vacanze. Il walnut per gli animali è la protezione dai cambiamenti e dalle influenze non volute. Per animali sottosviluppati e isolati che vengono introdotti in un nuovo ambiente e per tutti i cambiamenti drastici. Quindi se il vostro animale fa fatica ad ambientarsi alla casa di vacanza, al nuovo posto, ai nuovi ritmi, il walnut è il fiore che può aiutarvi. Holly, anche questo rimedio non viene usato per gli animali. Holly è il rimedio per la collera, l'ira, la gelosia, eccetera. Fiori per lo scoraggiamento o la disperazione. Abbiamo il larch. Il larch per gli animali è la scarsa fiducia in se stessi e nelle cose, quindi paura della macchia perché non si conosce, paura delle novità, non aver coraggio in loro stessi e nelle loro capacità. Pine, anche questo rimedio non viene usato per gli animali, è il rimedio delle persone che si sentono in colpa per qualcosa che hanno fatto o non hanno fatto. Elm, elm per gli animali, sovrastati dalla responsabilità, una canina che viene usata solo per le cucciolate, si ritrova stanca, esausta per tutte le responsabilità di quello che le è stato chiesto. Sweet chestnut per gli animali, devastazione mentale, dopo che si sono tentate tutte non si vede la luce, quindi comportamenti stereotipati per una precoce separazione dalla mamma, quindi un canino che magari ha dei comportamenti strani, ormai stereotipati, si può dargli sweet chestnut per aiutarlo. Star of Bethlehem per gli animali, shock, trauma e punizioni, operazioni, distacco dalla mamma precoce, eventi traumatici. Anche questo vi è utile in vacanza se magari il cane subisce un trauma per un incidente, un'aggressione da un altro cane, vi può aiutare a fargli passare velocemente lo shock. Willow, anche questo rimedio non viene usato per gli animali, sono per Willow è il rimedio per le persone che provano risentimento e amarezza per come è andata la loro vita. Oak, per gli animali, è un animale che continua a superare il punto di stanchezza totale, per esempio cani o che lavorano in polizia. Crabapple per gli animali è il rimedio della polizia, mordicchiarsi, lavarsi in continuazione. Un cane che nonostante abbia preso le pulci continua a grattarsi ossessivamente. Anche questo è utile in vacanza se il vostro cane dovesse prendere una zecca o le pulci, nonostante l'abbiate pulito, lavato e tutto, Crabapple lo può aiutare a sentirsi più pulito. Fiori per la preoccupazione eccessiva per il benessere degli altri. Cicori per gli animali, possessività nell'amore, egoismo, cane che ringhia il cibo per la paura che gli venga tolto. Vervain per gli animali, sovraccitazione, attività normale e persistente, un cane che corre libero all'impazzata fino a che non crolla esausto. Vine, anche questo rimedio non viene usato per gli animali. Vine è il rimedio delle persone che sono dittatoriali e vogliono dominare per forza sugli altri, quindi state attenti quando vi parlano di dominanza e di altre cose e vi consigliano il Vine, perché questo non è assolutamente il rimedio adatto in questi casi. Bitch per gli animali, incapacità di adattarsi e far fronte a richieste del proprietario mostrando intolleranza. Animali spesso rinchiusi per lunghi periodi che dopo che vengono liberati non riescono a sopportare il proprietario. Rockwater, il rimedio Rockwater non viene usato per gli animali, ricordatevi è quello per l'autorepressione e la negazione di sé, le persone rigide, eccetera eccetera. Altra cosa molto importante da portarsi sempre in vacanza per i nostri animali è il Rescue Remedy. Rescue Remedy può essere usato in tutti i casi di emergenza ed è importante sia nella versione spray che nella versione crema che è in aggiunta al crepe apple, e si può dare per shock, brutte notizie improvvise, preoccupazione, ansia, dovete fare un viaggio in nave, in aereo, in treno, o vedete che il vostro cane è agitato o il vostro gatto non ce la fa, Rescue Remedy, a partire dalla sera prima del viaggio, può esservi utile. Così come la crema può essere usata per punture e ferite, e può alleviare il cane e farlo stare meglio durante la vostra vacanza. Mi raccomando, esiste la formula delle pasticche e le gomme, non usatele per gli animali, uno perché contengono troppo zucchero e le gomme perché contengono lo xilitolo che è tossico per gli animali. Altra cosa importante da ricordarsi sempre, quando scegliete i fiori per i vostri animali, cercate di non antropoformizzarli, nel senso che non è vero che il cane odia i cani degli amici e quindi gli va dato l'olly. Magari il cane è preoccupato, ha paura degli amici, dei cani degli amici, quindi forse è meglio Mimulus, Aspen o Larch. Quindi state sempre attenti quando vedete il vostro animale in difficoltà a non attribuirgli sentimenti che non fanno parte della mente canina. Quindi, una volta scelti i rimedi, io vi consiglio, se volete provare per la prima volta a dare fiori, come sempre al massimo 7, ma per le prime boccette meglio farne 3 o 4. Come sempre, vanno date 4 gocce 4 volte al giorno. Va fatto una boccetta con 2 gocce per ogni rimedio, 4 di rescue. Una boccetta contagocce da 30 ml in soluzione acquosa per gli animali, sempre solo acqua, e si somministrano direttamente in bocca nel cibo, su un bocconcino, nei polpastrelli o nel rosa, quindi la parte fuori degli orecchi, non il canale uditivo. E va sempre dato mattina e sera e 2 volte durante il giorno. Io credo che con oggi vi ho dato una pillola per poter andare in vacanza tranquilli e avere il tutto il necessario per far stare bene i vostri animali. La prossima puntata vi parlerò invece dei fiori australiani per le vacanze per i vostri animali. Prima di salutarvi, però, come sempre, vi lascio i nostri riferimenti. Il nostro sito web www.energica-mente.it, la nostra email info@energica-mente.it. I nostri numeri di telefono: Francesca 340 23 45 340, Franco 329 89 669, Elisa 339 38 60 123. Ricordatevi anche la nostra pagina Facebook e ci aggiorniamo alla prossima puntata. Un buon weekend e una buona estate a tutti.